Ma sa niente, nessuno, voglio dormire, dormire. Voglio via, andate a aprire, via. Ma come, guarda, mi sento uscito fuori, ma cosa è fatto? Ma sono che sei a mattina, ma che cornuto. Mannaggia, mannaggia. Oh, voglio dormire. Allora, ma chi è? Il povero ziste spacci. Attaccata a 15 minuti. Pedro, va a aprire, no. No. Oggi voglio dormire. Quando stanno i bambini a fuori. Ma io ho il pasto, sto a dire, ma son che sia madina e sta presente a che stora. Manca da rava porta e tu già punta pistola. Mi dici che sei venuto per cercare armi e droghi. Da sputazza in faccia mamma manca saliva picciò. Entri di sbattiro visti nei cassetti. Ma c'è solo cazzimma nei tuoi occhietti. Sposti rimetti ti leggi i miei foglietti. Ma non leggo tensione nei tuoi occhietti. C'è tutta la cazzimma di chi vuole intimidire. Mi sta la sicurezza di chi sa di non trovare. Ma che non fai l'indiana però mi conosci bene. Sai come tro tengo in canne. Lo uso per cantare perché o mi drammi se chiama raga ma fenne. O mi drammi se chiama raga ma fenne. O mi drammi se chiama raga ma fenne. E a molto sto sparando in faccia sta massa di oh. Anna, trasferi all'antimafi. Ai ai ai ai ai. Che accanna vita all'antimafi. C'è sta mega che mi fa suona ah, ah, ah. Sento che sta musica è quello che te fa ah, ah, ah. Sento che sta musica è quello che te fa. Ma rava buona all'occhio, è stata forte. Guarda che bene, non è tutto un certo lust perché non te ne niente a fa. Perché andrò un ragazzo. Perché si cagano sotto e fa quella che se la fa. In un gioco se pensa chi sta bene ne ca. Caccia una ragazzi ma non canna. Ma che dobbiamo se stante i chips mi fa frega. Di napolitano e mo te lo dico pure in English. I'm not doing anything wrong, so let me smoke my joint and go to work. I'm not doing anything wrong, so let me smoke my joint and go to work. I'm not doing anything wrong, so let me smoke my joint and go to work. I'm not doing anything wrong, so let me smoke my joint and go to work. Banna, trasferi all'antimafi. Ai ai ai ai Bassone, voglio vedere se fu buffone, facciano un mafioso. Una big di babba, bassone, big di babba, bassone. Aria super poliziotto, se ho prima corrotto. Piena mattina all'università, fra bustezze e guaglionette, mi sta appariando. Ma l'antimafia è fernuta vacanza, te tagliene corna, si coiamma dall'anza. Non te puoi attizzare, come allo sgombero del centro sociale. Capo un buletto, mano a graffitare, non pare svastiche sul muro. Fossa, fossa, fossa, Banna, trasferi all'antimafia.